45% in 9 mesi. I prezzi dei generi alimentari aumentano vertiginosamente e alimenti base come riso, mais e frumento iniziano a scarseggiare in alcune aree del mondo. Alle stime della FAO si aggiungono quelle altrettanto preoccupate della Banca Mondiale, secondo cui i rincari mettono a rischio i progressi fatti in molte regioni del terzo mondo. Alla base di questo circolo vizioso ci sono diversi fattori. Da un lato la domanda che cresce, spinta dalla richiesta dei paesi emergenti e dalla produzione di biocombustibili che sfruttano per esempio i cereali. Dall'altro c'è la produzione che non aumenta a causa di siccità, cambiamenti climatici e per l'assenza di nuovi campi coltivabili. Le scorte di conseguenza diminuiscono e i prezzi lievitano. Una tendenza destinata a continuare, secondo Maurizio Mazziero, direttore generale di clubcommodity.com. Anche il 2008 vedrà forti tensioni nel comparto delle materie prime agricole. Le ripercussioni sono pericolose, le proteste al grido di la vita è cara si diffondono in Pakistan, Indonesia, Mauritania, Messico, Marocco, Senegal. Paola Nania, GR24, Il Sole 24 Ore.